grazie a Victor per la sua introduzione così limpida e così, spero, produttiva anche per me. Grazie. Sono qui per parlare di un argomento che appunto è già stato ampiamente anticipato, il rapporto moltitudine comune. In Empire e poi in Multitude e in Commonwealth, i tre libri che ho elaborato, scritto con Michael Hart, il problema del comune è stato posto sempre in relazione alla nozione di moltitudine ed anche alla critica della nozione di popolo. Perché appunto era nel quadro della globalizzazione che queste tematiche si ponevano e rivelavano fin dal principio delle notevoli differenze e delle notevoli variazioni semantiche. Mi perdonerete dunque se ricordo quali sono state le tesi che abbiamo sostenuto nei primi capitoli di questo insieme di libri, di questo affresco sulla globalizzazione. E mi limiterò a ricordarli molto sommariamente per passare senza indugi successivi al tema. E noi siamo partiti da un fatto nuovo. Il secolo breve era finito. Che cos'è il secolo breve? È quel secolo, quel tempo, quel periodo temporale che è cominciato nel 1914, o meglio, con la rivoluzione bolscevica del 1917 e che è terminato nel 68 o, se volete, nell'89. Con la fine della struttura statale sovietica. E questo secolo breve aveva avuto al suo centro la guerra dei 30 anni, cioè quella guerra che era andata dal 1915 al 1945, in maniera continua in Europa, con milioni e milioni di morti. E questa fine del secolo breve ci mostrava un mercato globale che aveva caratteristiche del tutto nuove. Non erano più grandi concentrazioni statali che potevano agire su questo terreno, quanto una sola fondamentale, ed erano gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America che conglobavano un potere che noi chiamavamo monarchico, e cioè un potere basato sulla capacità di imporre il valore della moneta, il dollaro, sulla capacità di imporre un ordinamento giuridico unitario, che era quello regolato dal capitale e immediatamente regolato dal capitale, e una sfera giuridica e una sfera culturale che era anch'essa ampiamente dominata dalla cinematografia, da tutti i nuovi mezzi di comunicazione culturale che Hollywood o New York possedeva. Accanto a quello monarchico c'era poi un potere che chiamavamo aristocratico, e cioè il potere delle multinazionali, che appunto sotto il dominio americano venivano estendendosi su tutto l'ordine globale. E poi vi erano tuttavia dei movimenti uno strato democratico, per così dire, che si apriva con grande fatica alla contestazione di questo nuovo mondo. Un mondo comunque alla ricerca di una unità, di un'unità giuridica. Il mercato, malgrado quello che dicono tutti i teorici liberali, non può vivere senza regole, non può vivere senza leggi. Il mercato non ha al suo interno la sua regolazione. Il mercato ha assolutamente bisogno di un ordine esterno, di un ordine normativo. E questa era la cosa che venivamo vedendo. C'era una grande lotta per imporre questo ordine. E in moltitudine, appunto nel secondo dei libri, avevamo introdotto il tema del tentativo di colpo di Stato che gli Stati Uniti facevano sulla globalizzazione, cioè il tentativo appunto di imporre quel progetto che abbiamo visto prima, quel progetto monarchico che prima avevamo individuato. Ma questo colpo di Stato fallisce, come sappiamo bene, ma bisogna stare molto attenti, perché verificarne appunto la fragilità significava nello stesso momento constatarne la terribile violenza. Il progetto della guerra che veniva appunto portata nei paesi arabi era un progetto che continuava e perfezionava il quadro del dominio. Noi parlavamo appunto allora davanti a quelle che erano le nuove tecniche di guerra, che poi non erano molto diverse dalle vecchie, che Rumsfeld e tutta un'altra serie di strateghi americani proponevano. Noi dicevamo chiaramente che si trattava di grandi operazioni di polizia interna, appunto a questo impero, a questa unità che veniva formandosi. E d'altra parte insistevamo sul fatto che la base materiale della nuova Costituzione imperiale veniva modificandosi proprio in seguito a queste guerre, proprio in seguito a queste debolezze, proprio in seguito all'insufficienza che il potere capitalistico americano e il potere statale americano avevano nello sviluppare questo progetto. Oggi possiamo senz'altro dire che questo progetto è fallito, ma il fallimento di questo progetto imperiale americano non comporta la fine di un mondo economico-politico particolarmente unificato. Si sono create vari punti continentali che oggi operano all'interno del mondo capitalistico unificato. Sono varie forze che nel neoliberalismo hanno trovato un fondamentale quadro di unità di intenti. Gli Stati Uniti d'America, evidentemente, la Cina, l'India, l'Europa, probabilmente anche gli Stati dell'America Latina, unificati nell'azione brasiliana, si muovono certamente per il momento in questa fase in un quadro capitalistico mondiale unificato. Di conseguenza lo Stato-Nazione, come l'abbiamo immaginato e come l'abbiamo vissuto fino alla conclusione del secolo breve, è profondamente in crisi. E nella globalizzazione il concetto di popolo è stato per troppo tempo combinato, stretto assieme al concetto di nazione, e anch'esso in una profonda crisi. La cosa curiosa in questo discorso è che quando abbiamo proposto il nome moltitudine per verificare quale fosse la possibile unificazione concettuale dei movimenti democratici che si muovevano sulla fase globale, sulla scena globale, distintamente appunto sia dal potere monarchico che da quello multinazionale, Molte critiche ci sono state rivolte, mentre a noi sembrava che fosse assai illogico, per così dire, introdurre questo concetto. Ma vediamo un momento di che cosa si tratta. Il concetto è tratto inizialmente dalla filosofia politica di Benedetto Spinoza, di Baruch Spinoza. Baruch Spinoza ne parlava come di un concetto, di un insieme di singolarità, perché egli riteneva che la fondazione di una comunità statale, di una comunità, di un popolo, non poteva che darsi senza trasferimento di diritto. Il diritto naturale, dice Spinoza, il diritto di natura, io lo considero legato ad ogni uomo. Quindi non c'è la possibilità di spostare, di trasferire verso lo Stato, di delegare allo Stato, di delegare all'uno la consistenza della pluralità. La moltitudine è un insieme di singolarità e se non delegano, ma trovano nell'insieme del loro agire la loro consistenza, la loro capacità di espressione, la loro comunità, il loro comune. Naturalmente queste singolarità sono cariche di storia, di desideri, di bisogni e quindi di diritti che corrispondono a questi bisogni e sono soprattutto capaci di produzione, di produrre il mondo, di rinnovarlo. Perché obbligarle a trasferire il potere che hanno, la potenza che hanno? Ogni singolarità è potenza. E questa potenza equivale a diritto. Potentia e ius sono la stessa cosa nel caratterizzare la singolarità. E appunto questa moltitudine, questo concetto di moltitudine è il concetto di un potere, di una potenza che ciascuno di noi, vivendo in comunità con gli altri, continua a detenere, che non trasferisce a nessuno. Ora, perché riprendere questo concetto? Che cosa serviva? Serviva evidentemente a definire una nuova forma, se volete, di democrazia. C'è un vecchio autore francese del 500-600 che si chiama Baudin e che dice tutte le forme che nella tradizione del pensiero politico ci sono state date, in particolare tre forme, la monarchia, cioè il governo dell'uno, l'aristocrazia o l'oligarchia, cioè il governo dei pochi, e la democrazia, cioè il governo dei molti, sono in realtà tutti monarchici, perché l'idea del potere non può essere che l'idea dell'uno. I molti si unificano nell'uno nella democrazia, i pochi si unificano nell'uno nella oligarchia, e il monarca è il monarca. C'è una trascendenza del potere rispetto alla potenza immanente delle singolarità. Tutti i poteri, tutte le forme di potere sono forme monarchiche. Mentre invece per Spinoza la democrazia assoluta, come la chiama lui, si diverge da questa tradizione, anche dalla tradizione monarchica, perché assoluto è il governo di tutti, per tutti. A che cosa poteva servire questo concetto? Continuiamo a chiederci. E serviva fondamentalmente per caratterizzare e mantenere la molteplicità della cittadinanza repubblicana contro l'assolutismo sovrano dello Stato moderno, ma soprattutto serviva ad esprimere la possibilità di una nuova ipotesi, appunto, di democrazia. Quando noi abbiamo cominciato a lavorare sul concetto di moltitudine, l'abbiamo prima di tutto preso negativamente. Cioè, esattamente come Spinoza aveva dovuto negare le forme di governo che erano precedenti alla sua indagine, e così noi abbiamo dovuto opporre il concetto di moltitudine a un'altra serie di concetti che erano correnti nel nostro orizzonte intellettuale, sul nostro tavolo di lavoro. In primo luogo, moltitudine non è classe operaia. Si badi bene, è anche un concetto di classe operaia, è anche, scusate, un concetto di classe. Infatti, moltitudine è sempre e comunque un concetto di forza lavoro, più o meno sfruttata, comunque sempre sfruttata. Ma il concetto di moltitudine è un concetto più esteso di quello di classe operaia, perché se la società intera è oggi dominata dal capitale, la moltitudine corrisponde a questa dimensione sociale dello sfruttamento. Ma soprattutto la moltitudine non è classe operaia, perché le dimensioni temporali e spaziali dello sfruttamento sono oggi completamente modificate. La forma di forza lavoro oggi egemone sul terreno produttivo è quella immateriale, intellettuale, relazionale, linguistica, e quindi una forza lavoro mobile nello spazio e flessibile nel tempo. La sua qualità fondamentale è quella di eccedere, di andare oltre, di produrre oltre le dimensioni tradizionali del controllo capitalistico, sia dal punto di vista spaziale, sia dal punto di vista temporale. Il lavoro, la moltitudine dal punto di vista spaziale è come il lavoro che la nutre, mobile e migrante. Il concetto di popolo, invece, fa coincidere popolazione e spazio. Il popolo vive dentro dei confini, anche per il tempo, anche per la temporalità, siamo oltre le dimensioni precedenti dentro le quali la forza lavoro era definita. Quando il lavoro intellettuale, quando il lavoro investe interamente la vita ed esprime le potenze della vita, la temporalità non può essere più trattenuta nelle ore di lavoro, nella giornata lavorativa. Il lavoro è qualcosa che si fa non solo lavorando, ma pensando, non solo pensando, ma facendo circolare linguaggi. Non solo facendo circolare linguaggi, ma facendo circolare con noi stessi macchine e prodotti, assimilando il capitale, parti del capitale, e costruendo autonomia nella costruzione della cooperazione sociale. Il lavoratore davanti agli strumenti di lavoro che oggi sono dati, cioè particolarmente agli strumenti telematici o agli strumenti scientifici o nell'attività di servizio, è un lavoratore che si muove, che è mobile e flessibile, è qualcuno che costruisce la cooperazione sociale nel produrre. Quello che è particolarmente evidente è che dentro questa nuova dimensione il lavoro si presenta nella sua sottomissione sociale, perché il capitale è ancora lì, e come c'è ancora più forte anche il capitale, ma c'è questo paradosso di una maggiore potenza di una maggiore libertà, del tutto relativa, eppure effettiva. La figura dello Stato, la figura del fondamentale che oggi emerge in queste situazioni, la figura della forza lavoro fondamentale che oggi emerge, è essenzialmente quella del precariato. Precariato, una situazione infelice, senz'altro. Una situazione nella quale il lavoro si rappresenta effettivamente come precario, come mobile temporalmente, mobile spazialmente, scusate, flessibile temporalmente. Il precariato, soprattutto quando si vede nelle grandi società mature di Europa o negli Stati Uniti, dove abbiamo ormai percentuali altissime di lavoro precario, è qualcosa di veramente mostruoso. Qualche cosa di mostruoso perché subisce questa coazione, questa pressione a una a regimi di mancanza di salario, a regimi debitori di debito continui, a una difficile accumulazione di quella che è la sua potenza produttiva. Ma d'altra parte questo tipo di proletariato nuovo è particolarmente potente, virtualmente potente. Guardate bene, bisogna veramente lavorare su questo concetto del virtuale e della potenza. La virtualità è la forza potenziale del lavoro autonomo, della capacità di ciascuno di essere portatore di una dignità. Non si è più schiavi, come l'operaio fordista era, di una catena di montaggio. Si ha la capacità di esprimere potenza intellettuale, capacità relazionale. Si può inventare, si può portare nel lavoro la novità e l'eccedenza del proprio sapere. Tutto questo determina una situazione critica generalizzata nello sviluppo capitalistico. Qualche mio compagno dice: il capitale si è diviso in due. È una formula completamente assurda per certi versi, ma forse indicativa proprio nel paradosso che rappresenta. Come voi sapete, il capitale è un rapporto sociale. Il capitale non è un leviatano, una potenza estrema che comprende tutto, che comanda tutto, che fa tutto. No, è un rapporto sociale. È un rapporto nel quale il capitale sfrutta, cioè determina un rapporto di subordinazione nei confronti dei soggetti. Questi soggetti sono soggetti vivi. Il capitale non potrebbe sfruttare il morto, può sfruttare solamente la forza lavoro vivente, il lavoro vivo. La qualità del lavoro vivo condiziona la forma del capitale. Il capitale si modifica in relazione alle modifiche e alla potenza del lavoro vivo. Una società di schiavi, il capitale che opera nella società di schiavi è differente dal capitale che opera in una società dove il lavoro è massificato in forma potente. Il capitale che opera in una società cognitiva è un capitale differente dal capitale che operava nelle precedenti forme sociali di forme e modi di produzione. Questa relazione tra capitale, tra forza capitalistica e forza della forza lavoro e potenza della forza lavoro è un concetto assolutamente centrale, che è vivo in tutto il marxismo. È un concetto assolutamente fondante del marxismo. È il concetto che ci permette di trasformare delle forze oggettive in forze soggettive. Ed è appunto a partire da questo che paradossalmente alcuni compagni dicono: il capitale, soprattutto il capitale finanziario, che è una forma di capitale, quindi una forma di rapporto sociale, non è qualcosa di parassitario che vive chissà dove. Il capitale oggi non ha più la capacità di organizzare direttamente la forza lavoro. Deve perciò ricorrere a tutta quella quantità enorme di strumenti sociali che vengono messi in atto per questa funzione. Ora è evidente che questo è semplicemente un paradosso, ma è un paradosso che va forse tenuto presente per permetterci di avanzare nella, non solo nella discussione, ma anche nella lotta. La forza lavoro talora si presenta come inafferrabile, perché la sua forza produttiva ha declassato o resi ineffettuali tutti i termini della sua precedente regolazione. Questo è un primo dato, cioè la moltitudine non è classe operaia, è classe sociale. È classe sociale di una moltitudine di soggetti virtualmente potenti, oppressi in quanto sulla base di questa loro potenza. In secondo luogo, la moltitudine non è una massa indifferenziata. Anche questa è una constatazione che ormai si può assumere come ovvia, banale. Non è una massa perché è una rete di singolarità, come abbiamo già detto, ma è anche massa perché la molteplicità degli eventi produttivi, le reti di singolarità, si presentano come un comune massificato. Non è massa perché il lavoro è sempre meno taylorizzato, standardizzato, massificato in senso proprio. Ed anche quando il lavoro intellettuale in rete è organizzato in maniera standard, per esempio nei call center, in certe imprese di servizio, eccetera, non può considerarsi come massa, perché è un lavoro relazionale, è un lavoro linguistico, affettivo. Parlare al telefono per dare informazioni ai vecchietti disperati che chiamano alla ricerca di una cosa nella notte, parlare nei servizi quando si bada ai bambini o ai vecchi, è come lavorare nella scuola. La presenza affettiva diventa un elemento di lavoro fondamentale. Taluni dicono il momento femminile del lavoro, che viene accentuato al massimo dall'attuale organizzazione capitalistica del lavoro, come se le donne non avessero mai lavorato, perché erano state escluse appunto dall'economia politica. Ma oggi invece vengono riportate lì al centro, proprio attraverso l'emergenza fondamentale di questi elementi affettivi. Un lavoro quindi singolarizzato nella sua potenza produttiva, ed è un lavoro comune. Questo è estremamente importante sempre, perché è comune dentro una contraddizione, perché non è più lavoro individuale ma lavoro cooperativo che si associa singolarmente. La razionalità capitalistica non riesce invece ad essere altro che individualista e impone la sua organizzazione in quanto organizzazione di individui. Infine, la moltitudine non è popolo. Laddove per popolo, quando per popolo si intende, molto dal punto di vista genealogico, un caotico insieme che solo lo Stato riesce a comporre. A noi sembra che anche questa affermazione possa avere, credo, una certa evidenza. Ed è ben vero che anche se si volesse unificare la moltitudine, solo un potere esterno potrebbe farlo. Ma la moltitudine appunto rifiuta questa unificazione esterna, questa potenza superiore. Nella tradizione dello Stato borghese, dello Stato moderno, la moltitudine esiste ed è costituita nella Repubblica attraverso una trascendenza effettiva che impone l'elaborazione del contratto, un contratto che è un trasferimento di diritto ad una potenza superiore. Ora, questo trasferimento è ontologicamente indimostrato, è storicamente indimostrato e ontologicamente impossibile. L'emergenza della forza sopra una moltitudine non costituisce un popolo, costituisce semplicemente quello che è un ammasso di individui che non hanno alcuna caratteristica specifica, se non quando andiamo a vedere effettivamente come il passaggio storico avviene, è la massa dei poveri contro la Repubblica dei ricchi, contro la Repubblica della proprietà. Perché questo è avvenuto. Così nasce lo Stato moderno. Lo Stato moderno nasce dal fatto che i ricchi, i possessori della terra, si uniscono escludendo dai loro organi di comando, dalle loro associazioni di comando, i poveri, i proletari. E lo Stato moderno si sviluppa attraverso delle successive operazioni di accumulazione della quantità di lavoro dei poveri, che viene trasformata in potenza del re, in potenza monetaria, in potenza, in capacità, infine, di investimento. Il capitalismo nasce da questo passaggio storico. Ed è questo il popolo dei poveri. E noi vogliamo la moltitudine dei ricchi, vogliamo la moltitudine dei potenti. Ci rovescia lo stomaco pensare allo Stato moderno, ai re, ma anche alle repubbliche della proprietà, anche alle repubbliche del potere sovrano, che toglie ai soggetti la possibilità di azione. E il grande progresso, che lo sviluppo della lotta di classe che si incarna nella trasformazione delle tecnologie, che si incarna nella trasformazione del lavoro, perché il lavoro non si trasforma perché ci sono degli ingegneri che si inventano le forme nuove di tecnologia, si cambia perché i lavoratori, la lotta di classe cambia le forme del lavoro, che sono sempre forme di produzione, ma soprattutto forme di controllo, e ogni volta il controllo deve modificarsi in riferimento a quella che è la capacità del lavoro, la capacità di produzione. Ora però cerchiamo di vedere che cos'è la moltitudine positivamente, dopo che abbiamo visto che non è classe, dopo che abbiamo visto che non è massa, dopo che abbiamo visto che non è semplicemente popolo. È fuori dubbio che la prima cosa che in questa nuova realtà possiamo sottolineare, soprattutto in una realtà di cui già ha introdotto Victor molte caratteristiche. Questa società della produzione sociale, questa società capitalistica del comando della produzione biopolitiche, che cosa vuol dire per la moltitudine essere un'attività produttiva biopolitica? Sotto il comando del biopotere, naturalmente. Significa, come abbiamo già detto, sviluppare la produzione attraverso quella che è una relativa indipendenza nella cooperazione sociale, sviluppare l'attività cognitiva come momento valorizzante della produzione, significa resistere al biopotere, sviluppare la lotta di classe. Qual è la forma nella quale la lotta di classe si sviluppa nella moltitudine, nell'età della moltitudine? Questa è la domanda alla quale indubbiamente la risposta è assai difficile. C'è infatti una dissoluzione di quelli che siamo di fronte, infatti, a quella che è una dissoluzione delle vecchie forme nelle quali la classe operaia si organizzava in forma egemone rispetto agli altri strati della società. La classe operaia era quella che essenzialmente, producendo più valore, aveva anche questa altissima dignità di rappresentare all'interno della sua organizzazione politica, sindacale e politica i bisogni dell'intera società. Oggi questa capacità viene meno, e l'abbiamo sperimentato ampiamente, lo sperimentiamo nella misura in cui la classe operaia diventa minoritaria rispetto al lavoro complessivo nelle società sviluppate, lo verifichiamo nell'esaurirsi o nell'appesantirsi delle funzioni sindacali, che diventano spesso corporative e incapaci di rappresentare lo sviluppo generale della società. Lo verifichiamo quando altre forze si presentano, altre forze moltitudinarie si presentano sulla scena, non accettando l'egemonia della classe operaia in quanto tale. E questa situazione è una situazione nella quale, appunto, oggi come oggi, abbiamo molte difficoltà a verificare, a determinare quale possa essere l'organizzazione di una nuova forma di resistenza. Sappiamo semplicemente che le forme di resistenza si sono diffuse, moltiplicate, che la moltitudine pluralizza le forme di resistenza. Sappiamo che nella moltitudine, quando questo concetto non è più semplicemente descrittivo di una realtà sociale, ma diventa un obiettivo politico di organizzazione, sappiamo che in questo caso si uniscono, o meglio confluiscono e agiscono, mantenendo la loro singolarità, in maniera unitaria, forze diverse. La classe operaia, sempre, evidentemente, con l'importanza che continua ad avere, la sua parziale importanza, ma non so io, i lavoratori dei servizi, gli studenti, i movimenti femministi, i movimenti contadini, i movimenti indigeni. C'è questa pluralità che viene confluendo dentro dei progetti che sono dei progetti di resistenza, che talora si trasformano in organizzazione, altre volte non riescono. La cosa estremamente interessante in questo quadro è osservare come le stesse tecniche di governo siano costrette a modificarsi in relazione a questo apparire della molteplicità multitudinaria. Abbiamo già accennato al fatto che quando la sintesi sta per saltare, quando il capitale si divide in due, la violenza interviene, la guerra interviene. Come, guardate bene, non guerre imperialiste di occupazione, ma guerre di polizia, di riordino del sistema capitalistico. Non si va in Afghanistan per assoggettare l'Afghanistan, si va in Afghanistan per farli lavorare, metterli sul mercato quella forza lavoro, toglierle le caratteristiche di resistenza. Non ci sarà mai un governatore americano dell'Afghanistan, c'è un generale, cioè un capo della polizia interna, che addestra i poliziotti afghani. C'è questa forma, ma poi ci sono le altre forme, molto più interessanti, che sono le forme di governance, le forme di governamentalità. Davanti alla moltitudine, la governamentalità diventa l'elemento fondamentale, perché la molteplicità delle resistenze impedisce l'unità del comando. Il comando deve essere spezzettato davanti alla molteplicità e alla pluralità delle resistenze. Il comando non può più apparire come elemento centrale unificante. La legge assume figure diverse. Non è più la legge deduttiva, è una legge che si articola amministrativamente, caso per caso. Ed è chiaro che qui si compone una prima figura più compiuta dell'organizzazione politica della moltitudine, ed è la figura del contropotere. La figura del contropotere che si pone all'interno di questo meccanismo spezzettato come elemento fondamentale. Su questo comunque torneremo tra un po'. Vorrei a questo punto tornare un momento indietro al concetto di popolo, verificare di dimenticarne o di sottovalutarne l'importanza o di confonderlo con altri concetti in questo primo affrontare o analizzare il fondamento della sovranità. È fuori dubbio che nella formazione degli stati moderni il popolo era stato concepito nella finzione giuridica come il concetto fondamentale che regge comunque la Costituzione. Si finge che il popolo sia il detentore della sovranità. Ora, questa materialità fondamentale potrà essere coniugata in altri modi, molti altri modi, poiché le forme del governo sono molte e comunque il popolo, il concetto di popolo resta fondamentale di tutti questi modi. Materialmente il popolo è l'uno della molteplicità. Ora, quando noi assumiamo che questa molteplicità, come già dicevamo precedentemente, come questa molteplicità trasferisca i suoi diritti al sovrano, ci dobbiamo sempre chiedere perché. Perché questo avviene? E questo avviene perché il popolo è costituito da individui che sono impauriti dall'accostamento dell'uno all'altro, perché vivono in una situazione di guerra permanente, qualora non ci sia un'autorità che garantisce la pace. Ora, questo è uno dei grandi elementi di falsificazione che noi ci troviamo davanti. Guardate bene, il concetto di popolo poi nella sua storia si modifica ampiamente. Il popolo, people, peuple, pueblo, povo, folk, spesso all'interno di tutte queste determinazioni si inseriscono elementi storici, naturalistici, razziali, ma soprattutto finanziari, militari, teologico-politici. Il comune denominatore è comunque l'identità, ma si tenta di fare di questa identità qualche cosa di più sostanziale di una semplice unità sovrana. Tutto questo con pericoli enormi, di scivolamento enorme. Teniamo presente che il nazionalsocialismo è l'esasperazione di questo tipo di sintesi identitarie. Teniamo presente che buona parte della crisi del comunismo stalinista si accumula attorno a questo orribile complesso di elementi nazionali, imperiali, identitari. Il popolo sovrano certe volte appunto appare come un organismo naturale, storicamente fissato. È l'idea della destra classica. Quale costruzione reazionaria potrebbe essere stata fatta in termini più coerenti ed efficaci? Ogni paese ha così il suo eroe eponimo, i suoi martiri, quelli passati e soprattutto quelli che dovranno venire. La retorica del passato e del futuro, i 50 milioni di morti nelle trincee di Verdun, i milioni di morti che la guerra dei 30 anni ha determinato in nome della nazione. Questa falsificazione di qualsiasi elemento patriottico è vero, perché nessuno vuole negare che noi viviamo su una terra, che parliamo una lingua, che siamo prodotti di una cultura. Ma quello che è odioso è l'identità. Il concetto di moltitudine permette di raccogliere non più il nome della guerra, ma il nome della pace, la pluralità. La moltitudine si associa nella politica. Spinoza concepisce la pace, non concepisce la pace come semplice assenza di conflitto, ma come accordo e progetto di desiderio fra le singolarità che compongono la moltitudine. E non pensa che la fine dei conflitti possa darsi senza la costruzione di un progetto di amore. Ora, queste sono parole che sembrano strane. Non lo sono, se si considera che le istituzioni umane si costruiscono proprio in questo modo. La costruzione delle istituzioni umane non ha bisogno di un comando, fosse reazionario o democratico. Non ha bisogno di illusioni di valore, ha bisogno di una costruzione lenta, seria, coerente, di confidenza, di fiducia, di produzione. E la produzione la fa la forza viva. Il concetto politico di produzione e quello economico di produzione non possono mai scindersi. Che cosa significa dunque, dentro questo rapporto difficile ed estremo che la mobilità, la flessibilità e il precariato impongono alla moltitudine, alla guerra che i poteri le mostrano per unificarla astrattamente? Che cosa significa costruzione del comune? Significa due cose. In primo luogo, una presa di coscienza delle condizioni comuni del lavoro, cioè della costruzione del valore, della ricchezza, così come oggi si danno. L'abbiamo già detto ampiamente, ma ripetiamolo. Sono la cooperazione dei soggetti produttivi e l'innovazione delle singolarità che costruiscono la rete efficace, cioè la rete che produce valore, nei processi produttivi. I lavoratori non sono uniti da elementi ideologici o esterni alla loro capacità produttiva, ma dalla forma comune dello sfruttamento che si esercita essenzialmente sulla intellettualità di massa, e da questa evidentemente ridonda, discende su tutte le altre forme di lavoro, su tutto ogni altro settore del lavoro produttivo. Ed è dentro questa effettività di modi diversi e di forme associative che il lavoro si organizza e si esprime. Il lavoro ormai comincia a diventare assai simile. È lavoro sempre più intellettuale, è lavoro sempre più affettivo, è lavoro sempre più che si generalizza nei rapporti linguistici. In secondo luogo, non basta evidentemente definire la presa di coscienza delle condizioni comuni del lavoro sfruttato per permettere una cosciente costruzione del comune per la moltitudine e per il nuovo proletariato. Questa comune coscienza emergerà e si porrà come tendenza solo quando sarà capace di costruire degli obiettivi comuni. La moltitudine deve organizzarsi. La moltitudine non è qualcosa di vago, è qualcosa che appunto tende a mettere insieme le singolarità di cui è composta. E questo passaggio di presa di coscienza, di presa di coscienza politica, democratica, è assolutamente decisivo. Insomma, per capirci, da un punto di vista oggettivo, sociologico, troviamo che le differenti funzioni del lavoro, sia esso informatico o di ricerca, contadino o industriale, nei servizi o nella cura, maschile o femminile, si qualificano ormai sullo stesso terreno. Lo sfruttamento nasce dall'omettere insieme socialmente queste energie biopolitiche. Ciò non significa, anche a livello internazionale poi le gerarchie dello scambio ineguale diventano sempre più fragili, ciò non significa che queste gerarchie non esistano, i processi di delocalizzazione lo mostrano ampiamente, la situazione è comunque insostenibile perché la velocizzazione degli scambi e l'interdipendenza delle aree produttive diventano processi sempre più forti e irresistibili, ma che lasciamo cadere tutto argomento. Il limite estremo di questo processo è quello che evidentemente vede la nascita del capitale finanziario come capitale che unifica globalmente la situazione globale, che unifica la situazione globale, credo che sia forse importante vedere un momento, fare un esempio rispetto a quella che è la crisi attuale, per vedere se questi nostri concetti riescono a funzionare. Si sente dire che la crisi che è cominciata nel 2008 è fondamentalmente determinata dal distacco fra il comando finanziario e quella che chiamano la produzione reale. Io non sono d'accordo su questo, mi sembra che quanto abbiamo detto si possa portare a delle diverse conclusioni. Insisto su quanto ho detto un momento fa, e cioè che la moltitudine oggi si presenta, per così dire, costituendo un comune all'interno dello sfruttamento capitalistico. Lo sfruttamento capitalistico si svolge sul comune, assume il plusvalore non dal singolo individuo, ma dall'insieme degli individui, non nella singola fabbrica industriale, ma nell'insieme della circolazione di valore nella società. Il capitale finanziario capta il comune della moltitudine, rovesciandolo, facendolo divenire la sua capacità di comando. Il capitale finanziario, da questo punto di vista, è esso stesso un concetto di capitale. È un rapporto sociale, non è qualcosa di parassitario. È una forma estremamente astratta, costituita da mercati, tra virgolette, da borse di scambio, valutarie, da banche, da sistemi bancari, che accumulano, segnano valore in relazione a quello che è il comune produttivo. C'è questo rapporto simmetrico tra capacità del capitale finanziario e valore che viene espresso dalla comunità sociale. Se dunque sulla moltitudine incombe questo comune mistificato, sottratto ai soggetti, alla potenza della singolarità che costituiscono la moltitudine stessa, si dovrà riconoscere che la crisi economica attuale non è una deviazione o improduttiva o parassitaria di quote di plusvalore e di risparmio collettivo, che appunto questa potenza astratta, questo leviatano che è il capitale finanziario, estrae. Cioè è proprio una deviazione improduttiva parassitaria di quote di plusvalore di risparmio collettivo. E invece la crisi attuale, la forma di accumulazione del capitale, quale oggi sta determinandosi, simmetrica ai nuovi processi di produzione sociale e cognitiva del valore. La crisi finanziaria odierna va quindi interpretata come l'incapacità del capitale finanziario di far funzionare il comune che il lavoro della moltitudine produce. È l'incapacità del capitale, quando resta chiuso dentro i confini dello Stato-nazione, mantenendo i privilegi di classe, i diritti di proprietà privata, le spese di riproduzione delle élite, il peso di tutto quello che è veramente improduttivo, tutto quello che è legato alla proprietà privata, tutto quello che non è comune. E nonostante questa incapacità, mangia, assorbe quello che invece è il vero valore, quello è il vero valore, il valore della nuova produzione. Lo mangia, se lo trasforma finanziariamente, ma il peso di tutto quello che resta della vecchia produzione. È questo che rende la crisi estremamente difficile. Siamo di fronte a un blocco dell'accumulazione di capitale, piuttosto che all'esito implosivo di una mancata accumulazione di capitale. Se volete un altro esempio, è chiaro che la crisi nasce dalla capacità del capitale di attaccare nei paesi sviluppati che hanno avuto la rivoluzione riformista nel lungo il secolo XX, di attaccare il welfare, le grandi strutture dell'assistenza pubblica, di attaccarle e di svuotarle, di prendersi non più semplicemente quello che i lavoratori fanno nelle fabbriche o nelle nei campi o nei servizi, ma prendersi il denaro che hanno accumulato per la loro vecchiaia, quello che hanno accumulato per l'educazione dei figli, quello che hanno messo insieme per stare un po' bene nella vita, quello che hanno messo insieme per vivere di più lungamente, per avere aspettative di vita più lunghe. Ma tutto questo non riesce a farlo il capitale se non appunto schiacciando quelle che sono le forme produttive che che la nuova forma comune del lavoro determina, ed impedendo che queste costruiscano forme politiche adeguate al prodotto, alla loro produzione. E quindi come si può uscire dalla crisi? Oggi non ci sono New Deal proponibili, a meno di costruire dei nuovi diritti di proprietà sociale di quel comune che il capitale sfrutta. Dalla crisi economica di oggi si può uscire solamente attraverso una rivoluzione sociale, quando si ponga un diritto che con tutta evidenza si contrapponga al diritto di proprietà privata. In altre parole, se fino ad oggi l'accesso a un bene comune ha preso la figura del debito privato, da oggi in poi è legittimo rivendicare il medesimo diritto nella forma della rendita sociale e far riconoscere questi diritti comuni è insieme l'unica e la giusta via per uscire dalla crisi. E allora che cosa significa la democrazia a questo punto? Che cos'è la forza del popolo? La democrazia non è più quello che la storia del pensiero politico ci propone, anche non solo la storia del pensiero politico, ma anche la storia delle esperienze politiche che abbiamo vissuto, e cioè il governo dell'uno da parte dei rappresentanti dei molti. Tantomeno è quello che gli ideologi conservatori, che dell'ideale di democrazia rappresentativa hanno fatto un'arma che è pretesa assoluta, ci propongono, cioè l'esportazione del modello costituzionale euroamericano. Quando parliamo di democrazia intendiamo una democrazia assoluta, cioè un governo di tutti da parte di tutti, l'autonomia politica delle singolarità che si riconoscono nel comune. Davanti a questa proposta, il modello liberale di democrazia si presenta e si definisce come corruzione. Corruzione delle singolarità che vengono ridotte a individui che si vogliono appropriare di beni, corruzione del modello democratico che è nella rappresentazione corrotto. La rappresentanza oggi è una forma di corruzione fondamentale. I modelli elettorali che oggi vigono sono modelli che si formano sulla corruzione, sull'accumulo di denaro, sulla concentrazione di mezzi di espressione di opinione pubblica, sul dominio del sociale, sul blocco dell'informazione. quella che è una pesantissima riduzione a una condizione di alienazione mediatica, su quella che è una pesantissima introduzione di elementi di insicurezza, tutte armi della destra, per così dire, armi del capitale, sempre. Batterci per una democrazia assoluta è allora l'orizzonte verso il quale la percezione oggettiva del comune nei processi lavorativi spinge. Non si tratta più quindi di raccontare che cos'è la moltitudine non è, ma di praticare quello che la moltitudine è, una interazione continua di singolarità e comune, di antagonismo e di progetti costituenti, e di costruire le forme politiche nella quale si possa dare sempre maggiore continuità nel trasferire il potere alle singolarità, dal pubblico al comune. Grazie.